si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, ma questo dopo il giornale radio delle 8. Adesso cominceremo con una breve rassegna stampa, poi più avanti i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie. Una buona notizia viene da Milano, riguarda la scuola, ma in questo caso le scuole materne, perché la città di Milano è a caccia di maestre delle scuole materne. Non si trovano le maestre per le scuole materne, circa 500 maestre per le scuole di Milano, quindi è una buona notizia per chi è in cerca di un lavoro. Vedremo se questa mancanza di insegnanti è da attribuire alla pigrizia dei candidati, oppure se gli stipendi sono troppo bassi, oppure che cosa, insomma, vedremo di capire cosa accade a Milano in una settimana nella quale si parla ancora naturalmente molto di scuola, con la buona scuola riforma del governo approvata in un ramo del Parlamento e adesso andrà avanti coi sindacati che confermano le proteste, tra cui un sciopero all'inizio degli scrutini di quest'anno. Questo dopo il GR delle 8. Adesso però cominciamo con un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E se volete cominciare a interagire con noi da subito in tempo reale, ci trovate su Facebook, la pagina del programma Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi, 349-238-6666, se volete mandarci un SMS di sabato mattina. Cominciamo con i giornali. Ci sono varie questioni, l'Europa per quanto riguarda l'Italia e la questione delle regole sull'IVA, ma anche per quanto riguarda l'accordo che continua a non arrivare sulla Grecia, e poi l'avanzata dell'ISIS in Siria a Palmira, su tutte le prime pagine dei giornali di oggi. Cominciamo proprio da qua. Vendette e coprifuoco, siamo finiti, scrive sul Corriere, il Corriere della Sera. Le voci da Palmira, occupata dall'ISIS, cercano casa per casa, siamo finiti, sono le voci che arrivano dalla città di Palmira, da due giorni nelle mani dell'ISIS. Continuerebbero i massacri. Un sacerdote siro cattolico, padre Jacques Murat, è stato sequestrato. Scusa, il condizionale, perché come sapete le notizie insomma da queste zone del mondo non sono sono sempre da prendere con le pinze, non è chiaro chi le dà, come le dà, non c'è esattamente una situazione di libera informazione in Siria. Vediamo per esempio cosa scrive il Corriere a proposito proprio di Palmira. Naturalmente il sito archeologico importante, l'UNESCO ha espresso preoccupazione per quello che sta accadendo, ma naturalmente interessano anche le vite umane e la condizione di chi vive da quelle parti con l'avanzata dell'ISIS. C'è una storia nella storia, ed è quella del carcere di Palmira, perché un carcere che è stato aperto, un carcere diciamo che ha una fama terribile in Siria, è stato aperto proprio dall'ISIS appena arrivato a Palmira, lasciando diciamo andare via le persone, e questo gesto di liberazione rischia di far passare quelli dell'ISIS come una sorta di salvatori, di liberatori della Siria. È quello che scrive appunto il Corriere, perché questo carcere, il carcere di Tadmor, venne chiuso nel 2001 da Bashar al-Assad, il presidente siriano appena arrivato al potere, e quindi arrivò diciamo anche lui in quel caso lì sì come un liberatore. Poi però 10 anni dopo, nel 2011, all'inizio delle proteste delle opposizioni siriane, quel carcere venne riaperto e riempito di nuovo di oppositori politici. Adesso arriva l'ISIS, riapre di nuovo le porte di questo che alcuni scrittori, poeti, come per esempio Farai Barakdar, che c'ha stato 4 anni dentro il carcere, hanno ribattezzato il regno della morte e della follia. E questo diciamo è una mossa da parte dell'ISIS che può far conquistare anche un po' il sostegno e l'opinione pubblica. Le foto diffuse dai miliziani, scrive il Corriere, dopo aver conquistato la città, a maggioranza sunnita come loro, mostrano proprio le celle svuotate. Gli uomini del califfo vogliono appropriarsi del simbolo, pretendono di presentarsi come salvatori. È molto importante che i detenuti possano finalmente uscire, dice Bara Sarrai, autore di un libro da Tadmor ad Harvard, parlando con la BBC. Dice questo scrittore, è molto importante che i detenuti siano lasciati liberi di uscire, ma avrebbero dovuto essere i siriani a liberarli e non le truppe del califfato. Poi altre testimonianze di un esponente delle Nazioni Unite: ci arrivano voci che i militari abbiano impedito alla gente di scappare per non lasciare la città deserta. I testimoni raccontano che le milizie in nero hanno già imposto il coprifuoco dalle 5 del pomeriggio. Questa la situazione a Palmira. Sempre dalla prima pagina del Corriere, però, un'altra notizia che riguarda, come dicevamo, l'Europa e la pressione europea sui conti. Bocciatura sull'IVA, buco da 728 milioni di euro. Di cosa si tratta? Ce lo spiega il Sole 24 Ore, che ha il titolo principale proprio su questa notizia. Sulle nuove regole IVA, lo stop di Bruxelles. Ora vanno trovati 728 milioni di euro. Le nuove regole sull'IVA che sono state approvate dal governo. Il reverse charge è stato fin da subito criticato dalle imprese per i suoi effetti distorsivi, scrive il Sole. Proprio per questo, subito dopo la notizia arrivata da Bruxelles, Confindustria ha espresso in una nota soddisfazione per il semaforo rosso della Commissione europea alla richiesta dello Stato italiano di autorizzare l'introduzione del meccanismo del reverse charge IVA nelle forniture della grande distribuzione organizzata. Di che si tratta? È una cosa tecnica, si può anche abbastanza facilmente capire. È questo: con le vecchie regole i fornitori che vendevano alla grande distribuzione indicavano l'IVA nella fattura e se la facevano pagare dal cliente, che poi la versava all'erario. Con la nuova regola voluta dal governo, l'IVA veniva versata, diciamo così, per semplificare, direttamente dalla grande distribuzione, diciamo, quindi con una garanzia di maggiore celerità, di maggiori introiti per lo Stato. Ma questa cosa non piace a Bruxelles, è stata bocciata. E adesso, insomma, il governo italiano dovrà trovare da un'altra parte 728 milioni di euro per evitare che aumenti la benzina, perché come sapete ci sono le clausole di salvaguardia che prevedono, appunto, in caso di mancati introiti da alcune di queste misure fiscali stabilite dal governo, si passa direttamente a un aumento dell'accisa sulla benzina. Facile, facile. Restiamo sul Sole 24 Ore per l'altra, diciamo, questione, il dossier greco, l'infinito dossier greco. Atene al bivio, tagli o default. Merkel e Hollande avvisano Tsipras: non c'è alternativa all'accordo con i creditori. Tsipras è stato eletto alcuni mesi fa, lo sapete, sull'onda dell'entusiasmo dei greci per ritrattare il debito, ristrutturare, cancellare, mandare a casa la troica, eccetera eccetera. Per il momento non è chiaro se sia riuscito in alcuni di questi obiettivi. Ieri però, a margine del vertice europeo di Riga, il premier greco Tsipras non è riuscito a convincere il cancelliere tedesco Merkel. Non ci sarà quindi una soluzione politica alla crisi finanziaria di Atene. L'accordo deve essere di natura tecnica e deve essere raggiunto con Commissione europea, BCE e Fondo monetario internazionale, proprio quello che non volevano i greci. Questo scrive il Sole 24 Ore oggi sulla sua prima pagina. Andiamo invece su Repubblica per un'altra notizia che riguarda sempre l'Italia, ed è il tema delle pensioni di nuovo, perché insomma, sta salendo questo scontro tra il governo e la Corte Costituzionale. Uno scontro naturalmente pacato, fatto di dichiarazioni, però sapete, il ministro Padoan dell'economia, sempre a Repubblica, con un'intervista aveva, diciamo così, detto che c'era stato quantomeno un mancato coordinamento tra la Corte Costituzionale e il governo sulla circolazione dei dati di questa rivalutazione Istat delle pensioni. In sostanza Padoan ha detto: se la Corte avesse saputo che il buco che andava a creare era di 18 miliardi di euro, forse ci avrebbe pensato prima di bocciare la mancata rivalutazione Istat. Risponde il presidente della Corte Costituzionale proprio dalle pagine di Repubblica. Le regole sono state rispettate, dice il presidente Criscuolo. Sentiamo qualche passaggio. Non ho nessuna ragione di coltivare una polemica con il ministro Padoan, ma dare per scontato che la Corte dovesse acquisire i dati prima di decidere sulle pensioni mi sembra che non risponda all'attuale disciplina che regola il funzionamento della consulta. Domanda: ma ministro Padoan si definisce perplesso per questa mancata cooperazione tra governo e Corte Costituzionale? Risposta: io sono d'accordo sul fatto che tra poteri dello Stato e comunque tra le istituzioni dello Stato ci debba essere collaborazione, ma la Corte non può aspettare di decidere necessariamente solo quando pervengono determinate informazioni. Se si trattava di dati in possesso dell'autorità amministrativa, sarebbe stato opportuno che fossero comunicati alla Corte prima del giudizio. In pratica si sta giocando un po' al gatto e al topo, no? Tra Padoan e Criscuolo. Chi avrebbe dovuto dare questi dati a chi? Secondo il presidente della Corte Costituzionale doveva essere il governo a informare la Corte. Andiamo avanti, ma insomma, andando al sodo, se aveste saputo che il buco era di 18 miliardi, avreste preso la stessa decisione? Questo è difficile dirlo, dice Criscuolo, perché dipende dalla natura dei dati forniti, ma certamente si porrebbe un grave problema relativo al condizionamento dell'attività della Corte, che dovrebbe rimanere in attesa dell'acquisizione di questi elementi di convincimento. Insomma, il presidente della Corte Costituzionale dice: non me ne frega niente di quanto pesa sui conti pubblici la decisione della Corte Costituzionale, io decido e basta. E poi l'ultima domanda è sul fatto che è stato proprio il presidente della Corte, diciamo col suo voto in particolare, a far pendere la bilancia dei giudici che erano in equilibrio tra chi avrebbe mantenuto, diciamo, la normativa Monti sulla mancata rivalutazione Istat e chi voleva bocciarla. Perché lei l'ha bocciata? Per le ragioni espresse nella motivazione della sentenza, mi è sembrato ci fosse una violazione degli articoli della Costituzione nei quali si garantisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Quindi le pensioni un po' come il lavoro per il Presidente della Corte. Poi, però la domanda è a questo punto: e come la mettiamo con l'articolo 81 della Costituzione che garantisce il principio dell'equilibrio di bilancio? Questo principio effettivamente è stato costituzionalizzato, ma non spetta alla Corte garantirlo, bensì agli altri organi dello Stato. Giudicate voi. Traffico. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo sulle pagine dei giornali di oggi per questa veloce rassegna stampa. Prima di iniziare il programma vero e proprio Si può fare, andremo anche in Irlanda tra l'altro per vedere che aria tira nel paese dove si è votato ieri il primo referendum al mondo, forse per chiedere alla gente cosa ne pensa del matrimonio tra omosessuali, anzi in particolare la possibilità di inserire all'interno della Corte della Carta Costituzionale, abbiamo appena parlato della Corte Costituzionale, il diritto al matrimonio per le persone dello stesso sesso. Sì, l'intervista insomma del presidente della Corte Costituzionale su Repubblica oggi chiarisce alcuni aspetti su questa sentenza di cui si è parlato moltissimo in tema di pensioni. Invece su un'altra notizia calda di queste ore, di questi giorni, cioè l'arresto di Twill, il marocchino che si trova nel carcere di San Vittore perché lo hanno chiesto le autorità tunisine, quindi è scattato una, diciamo, cooperazione giudiziaria internazionale, ma i primi riscontri fanno capire che probabilmente questo Twill c'entra poco con gli attentati al Museo del Bardo, visto che sembra che si trovasse in Italia in quei giorni a scuola, molto semplicemente a Trezzano sul Naviglio, tra l'altro qua vicino Milano. Titolo del Fatto Quotidiano: Alfano fu avvertito dagli 007, sul marocchino ci sono solo sospetti. La strage del Bardo, il giorno dell'arresto, il 19 maggio, i servizi italiani avvisarono il Viminale. Cautela sul caso Tuile, virgolettato. Ma 24 ore dopo, pioggia di tweet e di frasi di vanto per l'operazione. Il premier disse che è da psicanalista chi critica il fermo. Invece il Messaggero ha un'altra prima pagina, un'altra importante notizia, perché l'Europa starebbe ridisegnando le quote di profughi, di cui settimana scorsa si era molto parlato. Siamo ancora a livello di bozza di agenda europea, dovranno essere poi i singoli stati a dire la loro, ma insomma tant'è. Scrive il Messaggero: quote di migranti, nuovo piano, in 24.000 lasceranno l'Italia. E questo, diciamo, per noi è l'aspetto, la buona notizia, perché in base ai nuovi numeri, nuove regole, la proposta della Commissione, che sarà esaminata mercoledì prossimo, prevede appunto che l'Italia sia già in sovrannumero quanto a profughi richiedenti diritto d'asilo. Ma, scrive ancora il Messaggero, il presidente francese Hollande ha confermato la linea dura ieri al vertice di Riga. Ho parlato con Renzi, gli ho detto che l'accoglienza e la registrazione, per distinguere tra migranti economici e quelli che hanno diritto all'asilo, va fatta nei paesi di fronte al Mediterraneo, cioè l'Italia. Il punto della Francia è questo: tocca a voi distinguere chi è migrante e chi è profugo, poi vediamo se questi profughi smaltirli o spartirli in quali quote. Ancora un'ultima notizia dalla prima pagina della Stampa a proposito del Salone del Libro, perché c'è un'accusa di peculato per il presidente del Salone del Libro di Torino. Il presidente uscente Rolando Picchioni finisce indagato per peculato per presunte fatture per operazioni inesistenti. I carabinieri ieri hanno perquisito la sede della fondazione e prelevato documenti contabili. Lui si dice incredulo: non c'è nulla di più lontano da me che un'indagine per supposto peculato. E nemmeno il Salone del Libro resta fuori dalle indagini e dai sospetti di diciamo peculato, quindi di truffe che hanno a che fare in qualche modo con soldi pubblici. Prima di chiudere, una buona notizia l'abbiamo trovata, vai. Una buona notizia che ha a che fare con l'economia e con un nuovo sito produttivo che, scrive il Sole 24 Ore, a metà settimana dovrebbe nascere tra due zone, in Puglia e in Calabria. Le auto del futuro nascono tra Puglia e Calabria. Un fondo americano ridisegna il destino del Mezzogiorno. Lev Capital Management investe 120 milioni di euro per la realizzazione di un'industria automobilistica tra Puglia e Calabria. Nell'ex stabilimento Isotta Fraschini, situato nel retroporto di Gioia Tauro e all'interno della fabbrica Om Carrelli, che è ferma naturalmente purtroppo da 3 anni, a Modugno, in provincia di Bari, si produrranno le automobili del futuro, una tecnologia nuova a quanto pare. 20.000 vetture per cominciare, che lasciano prevedere un nuovo scenario occupazionale, più di 1200 posti di lavoro nel giro di qualche anno, tra nuove assunzioni e il riassorbimento dei cassa integrati dell'area portuale dell'ex fabbrica pugliese. Speriamo, però si tratta di un annuncio, speriamo che si concretizzi, posti di lavoro al sud, una nuova fabbrica di automobili tecnologiche, magari, speriamo. Ci risentiamo dopo il giornale radio con Si può fare, apriremo anche il numero verde 800 24 00 24. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon sabato. Cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Milano Monterosa oggi? Bigia, però non piove e questa è una buona notizia. In attesa perenne della pioggia che a Milano poi non arriva mai, diciamolo, siamo abbastanza fortunati, piove poco. È vero, ma sì. Insomma. Però minaccia spesso. Esatto, cioè. Minaccia spesso, però devo ammettere che mi sento a casa, sì. Perché passo tutta la settimana in giro per l'Italia a presentare questo libro. Beato te, sempre e in poi, giro ragazzi, ma come facciamo? È vero, però poi io dico sempre il sabato e la domenica, no, non posso, perché il sabato e la domenica sono a Radio 24, sono felicissimo di questo, proprio che mi sento a casa, i due giorni di lavoro, che sono i miei due giorni di lavoro, che sono il sabato e la domenica, mi sento a casa, quindi... Invece guarda, io, Peter Bescapè, Alessandro Longoni, siamo più o meno sempre qua, insomma. Lo so. È vero, cioè, abbiamo anche noi una vita fuori di qua, anzi. Dei seri giornalisti e dei seri lavoratori radiofonici, e io invece che sono un lavoratore della domenica e del sabato, mi sento molto molto cioè il lavoratore della domenica è un po' come il guidatore della domenica, esatto. Quello che lavora così per così, modo di dire. Per sport, per hobby. Allora, tra poco parleremo di scuola, lo voglio dire subito perché abbiamo una notizia che è la città di Milano che cerca maestre per le scuole materne e per gli asili e non si trovano, quindi per chi fosse interessato, Milano e Lombardia, già questa è una notizia, una buona notizia. Certo. Però un'altra buona notizia ve la voglio dare subito, perché avevamo parlato, non ricordo più se settimana scorsa o due settimane fa, della mancata gita scolastica della classe di Gabriele in Calabria, a Morelli di Trenta, perché l'autobus col quale dovevano recarsi in gita a Lecce, ricordate, non era attrezzato per disabili. Certo che ricordiamo. Ce l'aveva parlato Luca Faccio, che aveva, per il Fatto Quotidiano, diffuso questa notizia. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliviero, si era subito recato dicendo sul posto risolveremo tutto, ebbene hanno trovato l'autobus, ieri sono partiti per la gita a Lecce. Hanno preso l'autobus. E ne siamo molto contenti. L'hashtag buona era vorrei prendere il bus e ce l'hanno fatta. Beh, no, mi sembra è una molto cosa bello. Che dovrebbe essere la norma, naturalmente, non dovrebbe essere l'eccezione, anzi, però... No, però è anche molto bello che dopo aver dato la notizia, che ovviamente era preoccupante e anche un po' disarmante, nel momento che si è risolto il problema, noi diamo anche la notizia del lieto fine, se no sembra che si faccia solo polemica. E grazie anche a Luca Faccio, blogger, che appunto ci ha raccontato per filo e per segno questa notizia. 800 24 00 24. Volevo anche chiedere scusa per la mia assenza di domenica scorsa, ero al Salone del Libro, come sicuramente Alessio le avrà detto, come avevamo già detto sabato, e tra l'altro devo anche dire che ero anche prontissimo, nonostante fossi leggermente in hangover dopo la festa alla Holden. Cose, si può dire, ma perché devi dircelo? Però voglio dire che mi sono svegliato all'orario giusto per essere in onda, poi giustamente Alessio mi ha voluto bene e non ha fatto il collegamento con il Salone del Libro, e quindi ringrazio moltissimo in realtà Alessio, perché sarebbe perché stato una imbarazzante pessima. Molto probabilmente sarebbe stato imbarazzante e quindi ringrazio anche Alessio Radio 24 per avermi dato questo giorno di permesso per presentare Fossi in te io insisterei al Salone Internazionale del Libro di Torino. Oggi, cari ascoltatori, vogliamo giocare con voi perché come sempre abbiamo un piccolo premio in palio, la mini guida di Expo, tutto quello che c'è da sapere su Expo e anche sul Fuori Expo a Milano, solo 24 ore partner editoriale di Expo, che sarà una guida di 7000 pagine, tutto no, quello che quello c'è è da sapere il catalogo ufficiale, lo regaliamo la domenica, il sabato regaliamo la guida mini, giusto, è il bigino di il Expo, bigino, esatto, è per sapere tutto ma essere informati anche solamente facendo 12 fermate di metro, però dovete chiamarci all'800 24 00 24 e diciamo così, oggi facciamo questo gioco qua, diamo un suggerimento a anche se non ci stanno proprio simpaticissimi, però non importa, a quelli dell'ISIS che se la vogliono prendere col sito archeologico di Palmira. Ci sono tanti monumenti orrendi da abbattere, non so, ieri parlavamo in redazione la statua di Rodolfo Valentino a Castellaneta, pare che sia bruttissima in Puglia, che poi fare bruttissimo Rodolfo Valentino bisogna proprio impegnarsi e ci sono riusciti, diceva vi ricordate la statua di Emanuele Arcuri a Porto Cesareo, contestatissima perché non è una statua ma che ci sta a fare eccetera. Emanuele Arcuri la Costituzione costituzionalista? Esatto, esatto. Ce ne sono tante, io mi sono fatto un piccolo elenco. Per esempio a Roma, Piazza Cina, c'è un blocco di ferro proprio, che non si sa cosa sta a testimoniare. Cioè, monumenti orrendi. Chiamateci e diamo un suggerimento a quelli dell'ISIS. Se proprio volete buttare giù qualcosa, almeno fateci un favore e tirate giù sta roba. Abbiamo il numero dell'ISIS e li chiamiamo noi. Poi noi e gli diamo l'elenco. Se dovete per forza distruggere le meraviglie del mondo, vi diamo dei suggerimenti, esatto, che magari non capite nemmeno che non sono delle meraviglie, e vi occupate di distruggere quelle. A tra poco, 800 24 00 24. Sento che per me sei come aria che non sazia mai. Cercherò e ti troverò, lo stanno pensando probabilmente anche al comune di Milano, dove stanno cercando, per l'appunto, come abbiamo già detto, circa 500 maestre per gli asili e per le scuole materne della città di Milano, che insomma alla faccia della crisi non si trovano queste maestre. Chissà perché, adesso lo scopriremo forse. Ne parliamo con Chiara Bisconti, buongiorno. Buongiorno, mentre parlavate di Milano vi confermo che è arrivato anche un po' di sole, eh? Sono alla finestra ed è sbucato il sole. Ma in che zona? Noi siamo a Milano. Io sono zona fiera più o meno. Zona sole. L'assessore alle risorse umane del comune di Milano si porta dietro il sole. Allora, insomma, se abbiamo capito bene, esaurite le graduatorie che ci sono già per queste maestre scuole materne, avete lanciato una nuova selezione, perché insomma al momento la domanda di maestre supera l'offerta. È questo il punto? Sì. Ricordiamo due cose, se mi permettete. È da 4 anni che il comune assume a tempo indeterminato. Questa è già una novità importante in questo contesto che avete descritto italiano un po' faticoso. Sì. Assumiamo a tempo indeterminato e soprattutto maestre. Il problema con cui ci stiamo confrontando adesso è quello del tempo determinato. Ogni anno, fisiologicamente, più o meno il comune ha bisogno tra le 4 e le 500 sostituzioni, che sono maternità, malattie lunghe. Giusto, è vero, io non l'avevo specificato. Sono contratti a tempo determinato, sì. Esatto, sono numeri importanti, perché comunque, ripeto, è circa tra le 4 e le 500 l'anno. Su questo stiamo facendo un po' di fatica, nel senso che le graduatorie che avevamo si sono esaurite e la costituzione delle nuove graduatorie non sembra così interessante, se posso dire una parola invece poi va analizzata con più serietà. Quindi abbiamo delle graduatorie che non attirano così tante richieste, così tante proposte. Quindi tanto io ringrazio voi che ne parlate, perché una delle cause può anche essere che non c'è conoscenza di questo. Noi facciamo spesso i bandi, capita, sì, l'abbiamo sperimentato anche noi, sì, buone notizie, bandi, annunci che però, non avendo diciamo adeguata pubblicità, conoscenza, magari non vanno. E c'è anche della disillusione in generale, che uno magari li legge di sfuggita e pensa che non siano vere, tanto, che non sia possibile. Sì. Oppure che... ma tanto ci saranno già gli amici degli amici già prenotati. Invece in questo caso voi avete proprio bisogno. Faccio una domanda stupida. Un altro effetto. Ah, prego. No, prego, prima lei, ci mancherebbe assessore. No, un altro effetto che magari si legge sempre: 5.000 richieste per 3 posti, no? Queste invece sono graduatorie che stanno attive negli anni, quindi è importante comunque farle entrare in queste graduatorie, perché nel tempo si può essere chiamati, quindi non c'è neanche lo spauracchio di dire 5.000. Mi sa che ha risposto alla mia domanda senza che nemmeno io gliela facessi, quindi sono contentissimo. E qual era la domanda? Vediamo. Mi chiedevo se nel momento che uno entra e riesce a prendere il tempo determinato, in realtà questo è un primo passo per poi un domani farsi assumere a tempo indeterminato come maestra. Però no, allora ecco, lei ha centrato il problema di cui volevo parlare, che non è risolvibile dal comune, ma risolvibile invece con una riforma della pubblica amministrazione. Io vengo dal privato e sono davvero stupita dal fatto che manchi questa semplicissima possibilità che permetta a chi entra a tempo determinato dopo aver superato una graduatoria, quindi tramite esami, se è valida, se si riscontra la volontà di andare avanti, di trasformare questo contratto in tempo indeterminato. Una, secondo me, io lo vedo da fuori, diciamo dal privatista, è una delle più grandi storture. Ma non è il motivo che sta alla base della famosa sentenza europea che obbliga poi il governo ad assumere i precari della scuola, quella, diciamo, scuola, l'altra scuola dell'obbligo, quella successiva alle scuole materne, proprio perché si stabilisce un principio di continuità da quel punto di vista, o no? Adesso io non so qual è il caso per cui è successo che sono stati obbligati. Nei fatti, oggi, per come è impostata la pubblica amministrazione, chi vince un contratto a tempo determinato non ha la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato, deve fare un altro concorso, sì, entrare in un'altra graduatoria, che molto spesso magari agisce in un'altra scuola, in un altro. Quindi le persone si trovano a scegliere su due fronti. Certo. Se è così, capisco perché uno dice: io forse non c'ho voglia di entrare nella graduatoria. Però in mancanza d'altro, a un certo punto uno, se non ha nessun altro opportunità, può dedicarsi anche a questa possibilità, cioè un contratto a tempo determinato per uno stipendio assessore di 1.300 euro, che non è tantissimo, di nuovo, e questo è un altro. Parliamo netto mese. Giriamoci un secondo, però a ragionare in modo positivo, voi lo fate nella vostra, è comunque un modo di iniziare nel mondo del lavoro. Il Comune di Milano, lo dico anche qui da neutra, diciamo, però è da sempre un ottimo inizio, ha un livello di competenze, quindi anche un approccio pedagogico riconosciuto da tutti molto alto, quindi anche solo formarsi, anche sei mesi, è un'esperienza molto rivendibile e molto formativa per chi approccia questo mondo. E poi comunque c'è uno stipendio. Cioè, non mi sembra nemmeno terribile lo stipendio, anche perché stiamo parlando di 6 ore al giorno e stiamo parlando di 1.300 euro netti, se è realmente così. Ma il livello di istruzione richiesto, di formazione, è molto alto, per cui, diciamo così, si scremano i potenziali. Una laurea. Cosa bisogna avere? Sì, assolutamente. Laurea in scienze della formazione, laurea che erano le vecchie magistrali, quindi non se ne ricorda. Però è proprio un corso di laurea, quindi dopo il diploma, ed è ovviamente perché comunque hanno a che fare con bambini di una certa età, e gli asili, le scuole dell'infanzia sono appunto momenti di importanza fondamentale per lo sviluppo di un bambino, quindi ovviamente il comune, seguendo peraltro dettami di legge, richiede competenze e formazione importante. Però al tempo stesso chi entra a lavorare nel comune si trova proprio in un contesto che è molto valido, molto avanzato e molto riconosciuto. Senta, le voglio fare una domanda che non riguarda tanto il Comune di Milano quanto, diciamo, la situazione analoga, non so se conosce, nel Comune di Firenze, dove ha fatto un po' discutere questa sperimentazione per, diciamo, mancanza, credo, di risorse dirette da parte del comune per i pomeriggi delle scuole materne, oltre che per gli asili nido, diciamo, viene appaltato un servizio ai privati esternamente. Ci sono genitori, insegnanti, maestre sul piede di guerra a Firenze per questo. Milano non fa una cosa del genere, prima di tutto, vero? Allora, Milano in realtà usa delle cooperative per alcune fasce orarie, e io non mi scandalizzo minimamente alla parola appalto ai privati, che invece fa tanto paura, quando è complementare a un'offerta solida di base, ben gestita come quella del Comune di Milano. Se ci sono degli spazi orari, se ci sono appunto delle possibilità di offrire servizi aggiuntivi, e questi anche coinvolgendo il privato in complementarietà col servizio pubblico, io sono molto d'accordo. Però non il pomeriggio è privato. No, ma il pomeriggio lei lo considera un servizio aggiuntivo o un servizio, diciamo, di base? No, io lo considero un servizio di base, e come a Milano stiamo lavorando moltissimo su questo concetto di scuole aperte, proprio per andare in modo diretto a infrangere questa frazione netta tra mattino, pomeriggio. La scuola è un patrimonio della città che, se aperto e interpretato con grande apertura mentale, scusate il gioco di parole, permette ai bambini di avere un momento pedagogico ben strutturato in cui crescere, un momento ricreativo all'interno dello stesso ambiente, un momento sportivo, e evitando tutta una serie di disservizi che sono quelli delle mamme che corrono a prendere i figli, li portano in giro per la città. Cioè, la scuola ha una centralità anche proprio di edificio, che è fondamentale per la qualità della vita di chi lo frequenta. Si possono svolgere delle attività in più anche sempre all'interno della scuola. Sì. Bisogna portare dentro in modo un po' laico, un po' aperto, tante forze che possono davvero poi offrire un servizio totale di utilizzo della scuola, senza farsi troppi problemi mentali se è privato, se sono associazioni del territorio, se sono pubblica. La sussidiarietà pubblico-privato è una delle chiavi di volta l'utilizzo di questi spazi. Chiudiamo svolgendo fino in fondo il nostro ruolo di servizio, diciamo cosa deve fare la maestra o il maestro interessato. Ci possono essere anche maestri maschi? Sì, assolutamente. Siamo sempre educatrici facendo un posto ai poveri maschi che ci usiamo sempre il femminile. Ma è giusto, di solito si usa sempre al contrario, che si usa il maschile per tutto, quindi mi sembra una piccola rivincita. Esatto, è una piccola rivincita. Cosa, come si fa per candidarsi? Si va sul sito del comune? Sul sito, sotto la parte bandi, vedere subito quali sono i requisiti, sbrigarsi perché sta per chiudere la selezione, e se no per maggiori informazioni scrivere direttamente al settore risorse umane del Comune di Milano. Però sul sito c'è tutto. Sul sito del Comune di Milano, perfetto. Grazie assessore Bisconti per essere stata con noi. Grazie, buon sabato. Grazie mille, assessore. Buona siamo partiti da qua oggi, dalla notizia che insomma il Comune di Milano cerca maestre e maestri per le scuole materne, per quanto sia contratti a tempo determinato, 1300 euro al mese è comunque una notizia, era un modo per iniziare a parlare di scuola in una settimana nella quale si sta continuando a votare in Parlamento la riforma della buona scuola. I sindacati confermano le proteste per quanto riguarda l'inizio degli scrutini, perché insomma non sono persuasi neanche dalle modifiche che sono state fatte alla riforma, andando proprio incontro alle proteste. Tra poco sentiremo uno di questi insegnanti che ha voluto rispondere tra l'altro al video di Renzi con un altro video. Ci sentiamo tra un attimo. 800 24 00 24. Cronache da un paese migliore. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Una citazione dilaniana. Bellissima. Bella, clamorosa, per introdurre il professor Giovanni Cocchi. Buongiorno. Tutti voi. Buongiorno. Abbiamo usato Blowing in the Wind perché insomma lei la risposta al video di Renzi l'ha mandata non sulle ali del vento ma su YouTube, perché ha fatto un video, maniche di camicia, lavagna, libreria, esattamente ricalcando lo stile diciamo comunicativo del premier. Perché... Sì, non avendo soldi per consulenti di immagine, abbiamo sfruttato sicuramente i buoni consigli che ha avuto il premier. Ma non dica così, perché dice abbiamo giusto sfruttato i suoi consulenti per fare la stessa cosa. Manca anche un direttore della fotografia, direi, così, nel suo video. Insomma, abbiamo cercato di fare un video che fosse decente, almeno sul piano dell'audio, perché altri video erano usciti, ma insomma, qualcosa di carino crediamo di essere riusciti a fare. Ma allora, soprattutto di contenuti, mi sembra, nel senso che non importa se uno non è riuscito a livello di immagine a rendere una cosa chissà che cosa, ma a livello di contenuti sicuramente questo video è strapieno. No, infatti è strapieno i contenuti, perché il premier alcuni contenuti li nasconde. Se volete parliamo dei contenuti. Ecco, intanto però diciamo una cosa, il video ha raggiunto quante visualizzazioni? Oltre 50.000, cioè lei comunque è riuscito nel suo intento di farsi vedere dagli insegnanti, dalle persone incuriosite che vogliono capire di più di questa riforma della scuola. Renzi, forse un punto in comune ce l'avete, ha detto: sono felice che si parla molto della scuola. Questa è una cosa che avete in comune, almeno questa? Questa è in comune, purtroppo noi raggiungiamo 50.000 e noi raggiungiamo 50 milioni, ma insomma le proporzioni e la misura sono queste. Anche incrinare un attimo un'informazione piuttosto schiacciata è già un piccolo andiamo sui contenuti. Perché non va bene la riforma della buona scuola? Lei va per punti, no? Per esempio l'alternanza scuola-lavoro, che Renzi sbandiera come un punto importante. Ascolti, se vuole ci torniamo un attimo dopo, vorrei fare un discorso più in generale che forse può far capire. Sì. Noi adesso abbiamo una scuola che è disegnata sulla base della carta fondativa della Costituzione, che è pubblica, cioè la Repubblica istituisce scuole di ogni ordine grado, gratuita, con l'obiettivo che è quello di far superare gli ostacoli di ordine sociale economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di rendere la possibilità che i capaci e meritevoli raggiungano i più alti gradi dell'istruzione. una scuola libera, nel senso che non è una scuola di tendenza, cioè libertà di insegnamento, l'arte e la scienza sono liberi, bla bla bla, che è un, non è un privilegio degli insegnanti ma una garanzia per gli studenti, perché solo nel libero confronto delle opinioni uno si può formare la sua. Sì. La scuola disegnata invece da questo disegno di legge è totalmente è il rovesciamento della scuola che conosciamo. Perché? Le spiego, perché si va verso la scuola americana. Gli ascoltatori sapranno benissimo che negli Stati Uniti ci sono molte scuole private, poche scuole pubbliche d'eccellenza e moltissime scuole per gli ispanici. Questo mi ha colpito molto nel suo video, professor Cocchi, perché lei agita questa cosa come uno spauracchio, cioè ci saranno delle bellissime scuole secondo lei in base a questa riforma, sì, dopo questa sì. riforma, e tante brutte scuole, perché cos'è, per via dell'autonomia? No, non è, cioè è un combinato di cose. Innanzitutto i fondi, cioè il fatto di destinare 5 per 1000 ognuno alla propria scuola determina una diversità tra scuola e scuola, perché la capacità contributiva dei genitori del liceo Parini è diversa da quelli appunto di Scampia. Uno, lo school bonus è un altro di questi. Però scusi, il 5 per 1000 mi pare che è stato stralciato dalla riforma. È stato momentaneamente stralciato e ha detto sia il premier che la ministra che ritornerà nella finanziaria. Poi c'è lo school bonus. Sullo school bonus, anche questo è uno strumento interessante, permette a un'istituzione, un cittadino, un'associazione di destinare a una scuola, che so, 10.000 euro. Di questi 10.000 euro lui in realtà ne sborsa solo 3.500. Sì, per via della defiscalizzazione, certo. Per via della defiscalizzazione. Quello che avviene già per i beni culturali, per quelle cose lì. Sì, ma ecco, la terza cosa appunto è il discorso dell'autonomia, cioè ogni scuola si sceglie i propri insegnanti, anche questo determinerà ovviamente che gli insegnanti più bravi andranno dove c'è più bisogno. Quindi professor Cocchi, ok, primo punto chiarito, dobbiamo fare il traffico, dobbiamo dare la linea di informazione sul traffico, quindi abbiamo chiarito il primo aspetto, adesso poi torniamo e vediamo la risposta del professor Cocchi di Bologna, Renzi, punto su punto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. È con noi il professore Giovanni Cocchi. In che scuola insegna lei a Bologna? Io in una scuola media. In una scuola media. Dunque, chiarito il primo punto, molto chiaramente da parte sua, veniamo a un altro aspetto, che è quello però della valutazione, che è un po' la pietra, diciamo, dello scandalo. Perché io so, per esperienza diretta, che molti insegnanti, anche sindacalizzati, anche, diciamo, storici portatori dell'idea di scuola che credo che porti anche lei, dicono: beh, a noi piacerebbe lavorare di più, che questa cosa venisse riconosciuta, magari anche con dei premi economici, perché lo stipendio dell'insegnante, parliamoci chiaramente, in Italia è molto più basso che nella media europea. Negli ultimi posti è bloccato da 10 anni e questa legge lo blocca altri due. Però su questo concetto qua lei è contrario a come invece altri, perché poi questo concetto non passa mai a livello sindacale, sì, cioè che si possa invece aprire la scuola a un'idea di valutazione del merito. La valutazione, per carità, non deve mica essere uno spauracchio. Allora, mettiamo alcuni punti. Noi tutti siamo già stati valutati in entrata con concorsi, tirocini, anni di prova, eccetera, ma questo non fa testo, cioè fa testo in entrata, diciamo. Poi è logicamente giusto che con una certa frequenza, ma senza esagerare, non tutti gli anni, ci sia un controllo, okay, sul nostro operato. Il problema quindi non è la valutazione, sì, il problema è chi valuta e come valuta. In questa legge non c'è una sola parola sui criteri della valutazione, però c'è chiaramente l'affidare questa valutazione al dirigente scolastico. Noi crediamo che, come nelle altre, però insieme adesso nella nuova versione, insieme anche a dei docenti. Guardi, i docenti in realtà daranno dei criteri sulla valutazione, ma la valutazione sarà ovviamente tutta nelle mani del dirigente scolastico, che poi rispetto al fatto che c'è un punto sia genitori e studenti forse può anche essere un bene, perché non è semplicissimo farsi giudicare dai genitori degli studenti, nel senso che ci possa essere magari un insegnante la smetterà di dare qualche 4 perché magari è più popolare o meglio valutato se dà 7 a tutti, ma però ci sono i test invalsi, quindi se se viene promosso l'insegnante che da tutti e quattro, credo che facendo un controllo incrociato con i test invalsi questa non possa passare. Ma si dice che i test invalsi non saranno utilizzati per valutare gli insegnanti, lei va oltre e mette sospetti che noi abbiamo ma che non volevo dire. Torniamo al nodo centrale, sì. La valutazione quindi deve essere fatta secondo noi, come avviene in Germania e in Francia, da soggetti esterni addestrati, formati per farlo. Mi spiego, a me va benissimo che qualcuno mi valuti, io voglio che entri nelle mie classi quando faccio lezione un signore di formazione, cioè un esperto di formazione, bravo, di pedagogia, un professore universitario, qualcuno di esterno all'ultimo banco col sì. suo iPad, veda cosa e questo nella riforma non c'è. No, cosa so insegnare? Perché come non so... c'è secondo lei? Per mancanza di fondi? Perché queste persone andrebbero pagate? No, guardi, non è una questione. Torniamo al discorso iniziale. Il discorso iniziale è quello. Io se... ho detto che noi ci basiamo sulla libertà di insegnamento. Ecco, lei capisce che se io devo essere valutato dal mio dirigente e dopo 36 mesi saprò se il mio contratto in quella scuola è rinnovato o meno, ovviamente questo determinerà un... anche non volutamente un condizionamento psicologico, perché ovviamente cercherò magari in un contesto di parlare meno di foibe e più di resistenza o viceversa, in un altro contesto cercherò di fare una didattica a crocette anche se a me non piace molto, cioè cercherò di piacere o di fare una didattica che piaccia a chi mi deve valutare, perché dalla sua valutazione dipende la conservazione del mio posto di lavoro in quella situazione. Questo ovviamente ha a che fare con la libertà di insegnamento, che è una ricchezza. Però questo, da quel che capisco, è un problema ineliminabile, anche se a valutare fosse una commissione esterna, cioè questo taglia un po' la testa. No, non è ineliminabile, perché la commissione esterna non mi valuta su quanto sono stato fedele alla linea, tra virgolette, dell'istituto. Quella commissione esterna valuta quello che io so insegnare e il modo in cui lo so insegnare, ed è una valutazione che oltretutto mi può aiutare. Questo discorso del merito, che è uno dei cavalli di battaglia del Premier, se lo andiamo a vedere, in realtà i premiati saranno solo il 5% degli insegnanti. Questo è vero, perché i fondi messi a disposizione sono abbastanza scarsi, questo credo pochi. Che l'abbia messo anche il governo. Degli insegnanti è costituzionalmente, cioè a fronte stritto, non so di quanti miliardi, credo 40 miliardi di spesa per la scuola, sono 500 milioni quelli lì, quindi non sono, no, 200 milioni per il merito e 500 per la formazione. Sono 200 milioni destinati solo al 5%. Parliamoci chiaro, il Premier parla alla pancia del paese, dei genitori. Tutti noi abbiamo incontrato qualche professore meraviglioso, molti professori medi e qualche professore disgraziato, e la pancia, parlare alla pancia significa da parte del Premier dire guarda con questa legge finalmente non avrai più quel professore disgraziato, ma il professore disgraziato con questo meccanismo non sarà assolutamente toccato, perché saranno premiati il 5% degli insegnanti e gli altri rimarranno al loro posto. No, non rimarranno al loro posto, andranno nelle scuole di cui che avrebbero bisogno degli insegnanti migliori, e quindi aumenterà la distanza. Questo devo dire questo che è una cosa che il punto. A me dal suo video questo mi ha toccato, sì. Cioè l'ha già detto anche prima, il rischio di fare scuole di serie A e di scuole di serie B. Devo dire che rispetto a quello che ho sentito dire dal professor Cocchi, per quanto mi riguarda l'obiezione è convincente, cioè mi aspetterei a questo punto da chi sta mettendo in piedi la riforma che rispondesse a questo. Secondo me in questo ha centrato il punto, ci almeno fosse una correzione con questa legge di iniziativa popolare, sarebbe molto buono. Intanto la ringraziamo. Vi ringrazio io dell'ospitalità. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. Giornata. Vabbè, poi su altri aspetti si può discutere. Naturalmente abbiamo 30 secondi. Se Dario da Bologna in 30 secondi ci fa il suo intervento, siamo felici. Altrimenti ci sentiamo dopo. Dario? Ci sentiamo dopo? Allora, no, sentiamo. Ci faccio un anticipo così. Esatto. Un antipasto. Ho telefonato perché ho sentito il vostro appello sul discorso delle brutture da abbattere, sì. Il consiglio all'ISIS. Da qualche anno la nostra città, che era una delle città più meravigliose, forse tra le più belle a livello storico nel mondo, abbiamo il, sì, centro medievale più antico del, sì, mondo, è deturpata da non so, da forme di bellezza alternativa messe lì. Per esempio, ce ne dica una. Beh, abbiamo il monumento al camionista, cioè questo gigante. Benissimo, monumento al camionista da abbattere. Dario da Bologna, 800 24 00 24. A dopo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Standing in a crowded room. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Si può fare, questa che avete appena ascoltato è Hold My Hand di Jess Glynn, canzone segnalata dall'ascoltatrice Camilla, che ama questa cantante perché si dichiara ottimista e contraria ai bla bla amorosi. Oh, finalmente qualcuno contrario al bla bla amoroso. A me piace una i bla bla amorosi, mi piacciono moltissimo, poi sono anche un pochino innamorato, quindi non posso dire niente. Ma Jess Glynn, tra l'altro, è una grande cantante inglese, è autrice di questa hit, vera e propria hit del momento, si dice così, eh? Sì, signori, infatti in discoteca la sento spesso. Visto che domenica ero in una discoteca a presentare il libro, ma te lo racconterò un'altra volta. Ecco, sì. No, perché guarda, quando mi dici parli sempre del libro, ma in una discoteca a mezzanotte con la musica che si è spenta è stato molto divertente. Comunque, vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei si può fare in musica, quindi segnalateci i vostri può fare in musica, sia che siate semplicemente degli ascoltatori, sia che siate dei compositori o che abbiate scritto voi delle canzoni, e lo potete fare sui nostri account social, ovvero su Facebook si può fare trattino radio 24, oppure su Twitter chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Il mio chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, vi aspettiamo anche all'800 24 00 24. Questa mattina siamo partiti dal tema scuola. Abbiamo sentito il professor Cocchi di Bologna, che con il suo video ha risposto al video di Matteo Renzi, insomma ponendo delle obiezioni, l'avete sentite, anche sensate, a quella che è la riforma della buona scuola, che è stata approvata in settimana alla Camera e adesso tornerà al Senato. Poi c'è il gioco. Chiediamo ai nostri ascoltatori di consigliare dei brutti monumenti italiani che l'ISIS potrebbe distruggere. Lo so che sembra una cosa brutta da chiedere così, visto quello che fa l'ISIS, visto che fanno anche cose orrende oltre a distruggere i monumenti, ma ci sembrava un buon modo per parlare di questa notizia. Cioè, insomma, voglio dire, ecco, siccome di monumenti orrendi ce ne sono tantissimi, allora che andrebbero abbattuti qualche volta. Sì, questo sì. Allora, lasciamo stare Palmira, che è un sito archeologico meraviglioso. Esatto. Dedichiamoci alla statua di Manuel Arcuri a Porto Cesare. Sì, proprio dobbiamo occuparcene. Tra l'altro abbiamo un ascoltatore, giusto, che è ancora in onda con noi, che parla di Bologna. Allora ti leggo un SMS che ci è arrivato, perché parla di Modena, e deve essere proprio la zona che deve essere strapiena di monumenti particolari, perché ci dice: a Modena abbiamo una paperella in titanio, un frullatore come monumento all'11 Mamma settembre, mia. Dei cubi colorati a colonne colonne di cuscinetti a sfera, ci dice Francesco da Modena. E sentiamo invece proprio con Modena, ma sai, esatto. Cuscinetti a sfera saranno legati al distretto dell'auto, all'automa, certo. Ferrari. Abbiamo Dario, che abbiamo sentito prima della pausa, da Bologna, e ci stava raccontando del museo, del monumento per il camionista. Siamo andati a controllare, è veramente, non so che parole usare. Bruttarello. Ce lo descriva, Dario. Di nuovo buongiorno a tutti, ma buongiorno. è una cosa veramente orripilante, ma visto l'argomento, oggi la vostra trasmissione si potrebbe chiamare si può fare oppure no. Non si doveva fare. Tipo il monumento al camionista non si sarebbe dovuto fare. Io direi si può fare meglio. Allora, lo descrivo io per chi non l'ha mai visto. C'è una statua, credo in ferro, di una figura umana che sulle spalle il camionista porta un camion, un vero e proprio camion messo di traverso, è realistico il tutto, quindi non stilizzato, e ed è questo forse l'aspetto più brutto. È alto 20 metri, una cosa alto 20 metri. Sembra una costruzione di Lego da bambini, invece è una roba vera. Sembra un pessimo parcheggio, direi. Sembra un tir parcheggiato su un uomo in maniera verticale. Ne ha altri, Dario, da suggerire? A Bologna è pieno, a pochi chilometri da lì c'è un ingranaggio gigante alla rotonda di Dola Predosa, che non si capisce che cosa debba significare. Un ingranaggio, c'è un ingranaggio gigantesco proprio in mezzo al paese. Per il distretto della meccanica, lì ci sono tante industrie meccaniche, forse sarà potrebbe per essere anche per quello. Se no, c'è un altro proprio a Bologna città, che è un incrocio tra Terminator e Alien, via Marco Polo, angolo via Beverara. Oggi vengo a Bologna, quindi vado a vederlo, perché a me in realtà poi i monumenti piacciono. Magari l'ingranaggio può essere bellissimo, nel senso che in una rotonda va bene che ci sia anche un ingranaggio, non è detto che sia brutto per forza. No, quello è brutto. Quello è brutto. Oggi vado a verificare, domani ve lo racconto. Vorrei chiudere con il giardino del posto di Palazzo D'Accursio, che è un monumento storico. Il comune di Bologna ha pensato bene di fare una passarella in legno, che i turisti ora evitano di vedere il giardino del pozzo, uno dei monumenti, uno degli angoli più belli di Bologna, perché c'è questa passarella, non si capisce perché è stata fatta, che poi durante il giorno, siccome ci sono poi tutti molti uffici del comune, gli assessorati, si riempie di balordi che urlano, suonano, giocano e fanno anche dell'altro. Questo per dirvi, per darvi giusto uno specchio. Però andatevi a vedere invece il nuovo comune di Bologna, alle porte di fianco alla stazione centrale, una cosa orripilante. Dario, buona giornata e grazie ancora. È un'enciclopedia vivente degli orrori, degli obrobri edilizi, insomma. Perché Bolognesi. Poi questa cosa la possiamo estendere anche agli ecomostri che ci sarebbero da abbattere. Lì tanto voglia sono, anche più, sono più difficili da abbattere quelli. Effettivamente ci vuole un esercito. 800 24 00 24, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, tra poco andremo, tra l'altro, in Irlanda per parlare con un italiano che vive lì e vedere come è, insomma, l'immediato post voto di questo referendum che ha fatto il giro del mondo, referendum sulle nozze gay. Cioè l'Irlanda oggi, ieri, ha votato per inserire in Costituzione il diritto per le persone dello stesso sesso di unirsi in matrimonio, primo caso. Che è il vero modo per risolvere questa questione, di infilare nella Costituzione e parificare i diritti tutti in un colpo solo. Però il risultato si saprà soltanto nel pomeriggio. Noi faremo una puntatina comunque lì per vedere quale, insomma, cosa si dice subito dopo il voto lì in Irlanda. Adesso invece è arrivato un SMS che ci dà l'hashtag giusto per il gioco sui monumenti. Si può disfare. Bello, questo si può disfare. Twittate, hashtag si può disfare. Mettete la foto del monumento che volete disfare, dell'ecomostro, e così diamo un suggerimento a quelli dell'ISIS per dedicarsi a qualcosa di più utile. Mario da Napoli, buongiorno. Salve. Senta, no, volevo semplicemente rispondere al professore di Bologna sul discorso scuole di serie A e di serie B. Sì. E proprio lui ha fatto un esempio che dimostra che già adesso esistono le scuole di serie A e di serie B, perché il liceo Parini non è uguale alla scuola di Scampia, già adesso. Sì. Cioè, lo dico io da Napoli, cioè ci sono persone che mandano i figli a studiare in altri quartieri, a un'ora di macchina di distanza, per evitare di andare. Però scusi Mario, lei dice che è già così, quindi già così. Cioè, però con la riforma si aggraverebbe, perché quello che diceva il professor Cocchi è che se si dà per esempio il 5 per 1000, le famiglie di quelli che vanno al Parini sono più ricche, danno il 5 per 1000, il Parini si arricchisce ancora di più, a Scampia si impoverisce ancora di più, e questa è, diciamo, la sua preoccupazione. Lei lì però da Napoli come la vede? Io di contro potrei dire che già adesso a Scampia, come in altri quartieri, questo l'abbiamo capito, ma il fatto che come interviene, la riforma su questo, secondo lei? Io dico al contrario, esistono già delle scuole invece che funzionano, quelle in cui i presidi, i dirigenti scolastici sono validi. Invece chi protesta sottende, diciamo, un discorso molto sottile, cioè che i professori sono tutti bravi e pochi, solo pochi non sono bravi, mentre i presidi sono tutti incapaci. Però mi scusi, ma non credo che il problema della scuola di Scampia sia che ci sia un brutto preside, invece al Parini ci sia un buon preside, oppure è così secondo lei? No, il problema non credo che sia colpa del preside. Il buon preside affronta il problema ambientale, invece il cattivo preside ci sguazza nel problema. Cioè, lei dice a Scampia ci sono scuole buone perché sono gestite da buoni presidi e scuole cattive perché sono gestite da cattivi presidi. È un punto buoni di vista anche questo. Bisognerebbe vivere a Scampia per saperlo. Buoni presidi e buoni insegnanti. E poi, vabbè, tra l'altro, a Radio 24 stessa da Barisoni, sì, è stato detto che il preside sceglie solo i docenti che attuano l'autonomia, quindi quelli là delle materie aggiuntive. Quindi diceva Barisoni solo 4-5 insegnanti. Adesso citiamo Barisoni come se fosse il Vangelo, a me mi sta bene perché io lo stimo molto. Però Mario, il punto, guardi, le ricordo, adesso dico non tanto a lei, che anzi la ringrazio per aver chiamato, agli ascoltatori che ci sentono, perché quello che diceva il professor Cocchi, che secondo me era ragionevole, era questo, cioè se noi mettiamo insieme l'autonomia, quindi il fatto che i presidi scelgano i migliori magari ne avranno voglia di andare nelle scuole un po' più ricche, al 5 per 1000. E allora non sono migliori. Insieme al resto, diciamo, adesso c'era un altro termine che lui metteva insieme, non ricordo quale, se mettiamo insieme tutto allora si rischia di aggravare le differenze economiche tra le scuole nel territorio italiano. Questo sul 5 per 1000. Aggiungerei che esattamente come sta dicendo, il fatto che ci siano già adesso scuole di A e di serie B, forse questa riforma che stiamo aspettando da un sacco di anni dovrebbe esattamente ribaltare questo meccanismo e non incentivarlo. Va bene, chiaramente qua si aprono scenari di tutti i tipi, però insomma ci sembrava interessante dare il microfono anche al professor Cocchi, che col suo video, poi l'avete sentito, insomma, ha fatto delle obiezioni sensate, mi è sembrato. Sì, il video lo si trova su YouTube, dura 25 minuti, potete andare a vederlo. È un po' lunghetto. Per la comunicazione di oggi è un po' lungo, giustamente per un professore dice 25 minuti è la metà di una mia lezione, che problema c'è? Continuate a twittare con l'hashtag si può disfare, 800240024, adesso andiamo in Irlanda. I grew up in an American town, no locks on the doors when we all bedded down to sleep. Met a pretty young girl and made her my bride. After church on Sundays, took the kids for a ride down the street. Swimming holes, catching fireflies in jars. Spend the evening staring at the stars. Then the gays got married, and the plant shut down, and the crops dried up everywhere around. Then the gays started kissing, and the state said cool, and they made all the kids be gay in school. 'Cause some gays got married, announced it on TV. Jumped in my truck and slammed reverse. I had to get to my family before the gay could get there first. Questa canzone, The Gays Got Married, è scritta da un comico americano, Trevor Moore, che immagina un cowboy sul trattore, un contadino americano di quelli vecchio stampo, che scolzolato, molto country, dice: il mondo non è più quello di una volta, i gay si sposano. È una cosa ironica, divertente. Fa molto ridere il video, ci sono a un certo punto due ragazzi che limonano, che li bloccano il suo furgoncino, e poi questo gruppo di omosessuali che viene e lo tira fuori dal suo furgoncino per cercare di baciarlo sulla bocca. Andate a vedere il video perché è molto divertente. Parliamo del referendum in Irlanda, ne parliamo con un italiano d'Irlanda, Giuseppe Crupi. Buongiorno. Buongiorno, come state? Bene, buongiorno, grazie. Benissimo. Sentilo com'è pimpante, direttore dell'Italian School of Cooking del gruppo Flavor of Italy a Dublino. Giuseppe è diventato uno chef, però tu sei arrivato in Irlanda facendo l'ingegnere. Esatto. Io sono arrivato facendo la tesi di laurea, poi sono rimasto per 5 anni a fare ricerca al Trinity, mi piaceva tantissimo, poi ho cambiato lavoro e poi in aeroporto ho conosciuto Marco, che è il direttore della Flavor of Italy. Ci siamo piaciuti, ho cominciato prima a fare un po' di lezioni per loro e poi, visto che il business si era espanso molto, è stato necessario creare la figura del direttore della Italian School of Cooking, sì, perché il mio ruolo non è quello di chef, io sono il direttore dell'Italian, sì, School of Cooking. Ah, però è vero, ma vi siete piaciuti nel senso che vi siete fidanzati? Scusa, la domanda no, è dopo. No, sono l'omosessuale dei due, volevo dire. Io sono stato sedotto in aeroporto, a me è piaciuto tantissimo il progetto di cui mi parlava. Perché Flavor of Italy è un che mio, cos'è? Flavor of Italy si occupa, diciamo, di diffondere così un po' la, che cosa? L'Italia in Irlanda da vari punti di vista, no? Il turismo, ma anche la cucina, no, corsi di cucina, tutto, sì, sì, accoglienza, tutto. Vabbè. Rappresentare l'Italia al suo meglio, sì, quindi che non è Berlusconi, ed è appunto l'enogastronomia. Quindi in tal senso abbiamo un ristorante, sì, la scuola di cucina, l'agenzia di viaggi. Vabbè, tante cose. Comunque ti aggiorno, non c'è più Berlusconi, non in questo momento Berlusconi, c'è Renzi, va bene che stai in Irlanda. Mai Renzi, dovevi dire Renzi. Dal potere. Io penso che la mia assenza abbia aiutato l'ascesa di Berlusconi. Io non l'avrei permesso. Giuseppe, a parte questa, diciamo, parentesi politica, è vero che tu vai anche in TV a fare però questi programmi? Un programma che insomma, il programma è la mattina, si chiama Ireland AM, diciamo il giovedì o il martedì con la Clerici, tipo uno mattina, italiani, esatto, con la Clerici irlandese. E sì, si chiama Alan il presentatore. Allora veniamo un po' a questo referendum qua. Allora, sì, intanto se è chiusi, però i risultati si sapranno credo nel pomeriggio. Non si sa, possibile nessuna indiscrezione sul risultato? Ma guarda, no, indiscrezioni in tal senso no, c'è stata una buona affluenza alle urne, perché chiaramente il problema Ah, ecco, si sa il dato? Quorum. Come? Si sa il dato dell'affluenza? No, però nel senso che i dati vengono parziali, quindi si dice magari alcune zone che ci si aspettavano non avrebbero votato, invece hanno votato in modo massivo. Ma quanti abitanti ha l'Irlanda, scusa? Come? Quanti abitanti ha l'Irlanda? Adesso lo metti in difficoltà. No, saranno sui 4-5 milioni. Il dato cambia perché prendi una persona come me, io sono cittadino, però non hai diritto di voto. Invece incuriosiva che non ci fossero dei dati. Invece ti posso dare io un dato che è al contrario: gli irlandesi cittadini che risiedono all'estero, un dato molto parziale, è quello dei 16 voli della Ryanair da Londra verso Dublino di venerdì 22 maggio, scrive Il Sole 24 di ieri, erano tutti strapieni. Perché carovane, si immagina che sia gente che viene a votare per il sì. Per il sono sì, tutte persone che vengono a votare per il sì. Questa è, diciamo, è stata la cosa più bella che ha commosso tanti, perché veramente molte persone. Una mobilitazione, ma c'è stato qualcosa? Perché a quel che abbiamo capito, anche diciamo il Premier ha detto che bisogna votare sì. Allora, guarda, questo è un po'. Io ti posso dire che sicuramente sì, il sì, per un motivo molto semplice: non c'è stato nessun partito politico che si è espresso per il no. Nessuno proprio? No, nessuno. Cioè, delle associazioni sì, immagino. Non c'è Giovanardi in Irlanda? Come? Non uno come Giovanardi in Irlanda, non ce l'avete? No, vabbè, allora, sai cosa? Ci sono stati dei giornalisti di quello che si chiama Iona Institute che avevano un certo profilo e hanno cercato in qualche modo di sostenere il no, però se posso darti due elementi fondamentali, sì, uno è quello che appunto dicevi tu, il Taoiseach, in Irlanda non esiste il primo ministro, si chiama Taoiseach. Il Taoiseach ha detto che questo sarebbe un grande passo per l'Europa, perché come sapete è la prima volta in cui è il popolo a decidere. Ma questa è una cosa molto irlandese, li fanno decidere sempre. E quindi anche l'ex presidente, avendo un figlio gay. Questo è un elemento importante, come? Chiaramente. No, dico, questo è un elemento importante anche dal punto di vista dell'immagine e della comunicazione politica. L'ex presidente che ha un figlio gay. Mi ha colpito una cosa, però, di quello che ci hai raccontato quando ci siamo sentiti per concordare l'intervista. Questa storia della famiglia fotografata e messa in un'immagine della campagna del no, la famiglia eterosessuale, quando l'hanno vista ho detto: ma come, noi non ci avevate mica detto che ci usavate per fare campagna per il no? Perché loro comunque erano in Australia ed poi hanno spiegato la loro storia, hanno detto: noi eravamo una famiglia giovane, un sito ci ha chiesto di fare delle foto, ci avrebbero dato le foto gratis, però avremmo dovuto lasciare i diritti delle foto. Poi quando si sono visti sul muro nella campagna per il no ai matrimoni gay hanno detto no a loro volta, e hanno chiesto di fare una campagna dissociati. Sì, esatto, sono dissociati che hanno deciso di fare una campagna per il sì. Sì, hanno rifatto la foto. Poi tra l'altro la cosa bella era che la foto per il no erano madre e padre che davano un bacio al bambino, no? Sì. Quindi non si vedeva, si vedevano di profilo. Quindi nella foto per il sì invece sorridono in telecamera alla macchina fotografica, e la prima foto è stata messa accanto alla foto del sì, quindi su internet, immaginati. Beh, perfetto, anche a livello di comunicazione, cioè, perfetto, perché un autogol pazzesco. È come essersi portati a casa tutto, una famiglia. Guarda, infatti, esatto. Molti dicono che i migliori sostenitori del sì sono stati quelli che hanno fatto campagna per il no. Però ricordiamo che è un dato molto importante, che la stessa Chiesa, che in Irlanda ovviamente è fortissima, era fortissima e forse adesso lo è un po' meno, quindi siccome anche in Italia si dice spesso la Chiesa, in realtà direi che sia il Papa che si è espresso dicendo chi sono io per poter giudicare un omosessuale, e in generale c'è uno spostamento e un'apertura. Ho letto che l'associazione Noi Siamo la Chiesa in Irlanda ha detto: non si distrugge l'istituzione del matrimonio e della famiglia, ma la si rafforza, sì. Giusto? Allora, guarda, i rappresentanti della Chiesa ufficiale in Irlanda hanno comunque espresso la loro posizione sul no. Certo, la Chiesa ufficiale sul no. Era molto facile sentire il prete di campagna, magari, sì, che nella piccola comunità dice. Ma è un po' quello che succede anche da noi. Anche la suorina, assolutamente. Sì. Dicendo, infatti, Papa Francesco sembra un prete di campagna tante volte. No, ma per noi è importante raccontare questa storia, perché io penso che anche in Italia la popolazione sia molto più avanti dei nostri politici. C'è un manipolo di politici che vogliono superare a destra il Papa, ma tendenzialmente la popolazione è a favore e non vede tutta questa contrarietà. Sono d'accordo. Tra l'altro, vedi, l'Irlanda e l'Italia, anche a livello di immagini in Europa, vengono additati come paesi ultracattolici, che per questo hanno a volte le posizioni reazionarie. Ora, se io parlo con i miei amici, non è quello che pensano, quindi effettivamente è vero, la disparità spesso è creata tra la classe politica e quella che invece, sì, è l'evoluzione normale della mentalità della popolazione. Esatto. Bene, grazie Giuseppe. Grazie mille. Senti, no, ma grazie un'ultima. A voi. Direttore di Italian School of Cooking del gruppo Flavor, esatto, of Italy. Ma se non sei chef, che cosa, come ti dobbiamo definire? No, sai che in che senso? Il direttore è una figura diversa, perché, sì, l'Italian School of Cooking è effettivamente l'unica scuola italiana di cucina in Irlanda. Ma tu sei o non sei uno chef, insomma, alla per fine? Noi, ma soprattutto per noi, non è semplicemente il fatto di cucinare, ma è proprio diffondere, sì, l'amore per l'Italia, insegnando a cucinare. Ecco, ma allora qual è la... Sei un ambasciatore. Ambasciatore Krupi. Esatto, vabbè. Esatto, questa mi piace. Questa sì, piace. Ambasciatore. È proprio regalata così, senza stipendio. Però, ambasciatore senza portafoglio. Qual è la ricetta, allora questo ce lo puoi dire, che in Irlanda della cucina italiana va per la maggiore? Ma guarda, loro chiaramente hanno quelle ricette che pensano siano italiane e non lo sono, e poi naturalmente la ricetta italiana vera e propria, dalla pizza alla pasta. Io ti dico una cosa che a me piace tantissimo insegnare alla scuola, sì, è far fare la pasta alla chitarra, perché tu li vedi arrivare, ci sono solo uova, farina, acqua, e a un certo punto sono lì che tagliano sulle chitarre che vengono direttamente al Molise, perché Marco e Maurizio, i proprietari della compagnia, sono molisani, no? E loro fanno queste tagliatelle tradizionali, sì, direttamente, senza aver mai cucinato prima, e ti dà una grande soddisfazione. Bello, molto bello. Vabbè, bella immagine degli irlandesi. Spaghetti, sempre spaghetti. Esatto, pizza e spaghetti. Che fanno la pasta alla chitarra. Grazie Giuseppe Krupi. Giusto, scusami, scusa. Le tagliatelle. Perdonami, io non sono un ambasciatore. Tutta la mattina che ci correggi, sbagliamo tutto. Vabbè. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ragazzi, buon lavoro. Ciao. E allora, questa è la situazione in Irlanda, i risultati ci dovrebbero essere nel pomeriggio di questo referendum sul matrimonio tra omosessuali, ma insomma, il risultato sembrerebbe abbastanza scontato. Sembrerebbe. Sì, l'elemento di novità è veramente il fatto di chiedere ai cittadini, è ovvio che in una comunità, sì, più piccola, dove ci sono 3-5 milioni di abitanti, è più semplice, però è interessante il meccanismo, insomma. Sembra scontato, però poi bisogna prenderne atto, cioè se la maggioranza dei cittadini è a favore, a un certo punto bisognerà farlo. Nella cartina geografica dei paesi che hanno già riconosciuto questo diritto alle unioni tra omosessuali, l'Irlanda è già, perché si può fare, qua si tratta proprio di inserirlo nella carta costituzionale. Ma in quella cartina Italia invece manchiamo ancora, quasi manchiamo solo noi, solo. Esatto, 800 24 00 24. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Emanuele da Roma, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Emanuela, prego, buongiorno. Cosa vuole intervenire Emanuela? Senta, siccome avevate parlato dei monumenti da togliere o da distruggere, a Piazza Cina, vicino dove io abito, da anni c'è una cosa in ferro che non ha... Come no? Non è mai piaciuta a nessuno. Ho ben presente, è un cubo di ferro. E ultimamente Piazza Cina. Piazza Cina, sì, ci hanno scritto tetano sopra, perché questa cosa arrugginita può provocare solo quello, cioè non è bella, è veramente una cosa obbrobriosa che non abbiamo mai capito. Emanuela, ma è una curiosità, ma io ho ben presente la foto, perché è un blocco proprio di ferro con una traversina sopra, ma nasce così già puro tetano stato. Oppure... No, tetano ce l'ha scritto qualcuno, ma nasce già arrugginito o è invecchiato col tempo? Oddio, questo francamente io l'ho sempre visto brutto e così. No, perché appare quindi completamente ricoperto. Ma forse è un monumento contro il tetano. Ecco, e Roma in quel periodo hanno messo anche altri monumenti in ferro e sono uno più brutto dell'altro. Questo comunque è veramente un obbrobrio. Se lo togliessero sarebbero... Noi abbiamo proposto l'hashtag si può disfare, quindi ascoltatori, se volete twittare o anche su Facebook postare le foto sul nostro profilo di monumenti da abbattere, tipo questo. Da disfare. Guardi, questo è veramente brutto, una cosa insignificante che non si è capito, perché da questo blocco partono delle strisce di ferro sempre, che non hanno nessun senso, cioè non si capisce... Anche volendo impegnarsi per cercare di trovarci un senso, non si trova. Le persone che passano tutte hanno avuto sempre la reazione negativa, quindi non è stato da noi del quartiere mai apprezzato. Se lo levassero e mettessero una cosa bella, forse... Quindi ecco, giriamo e torniamo all'origine della nostra iniziativa. Grazie Emanuela. Prego, se quelli dell'ISIS un intervento chirurgico vogliono buttar giù il monumento a Piazza Cina a Roma, potrebbe anche essere una cosa utile, ecco. Quello sta diventando molto pericoloso, giusto, perché parlando di ISIS, Roma, loro hanno detto che arriveremo a Roma, insomma... Per il momento è meglio rimanere su Modena, come abbiamo detto prima, o Bologna sui monumenti che abbiamo elencato prima. Allora, cari ascoltatori, adesso è il momento di celebrare il voto della legge anticorruzione con la nostra rubrica, con Alessandro Inna, Caffè Corrotto. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina... Alessandro Inna, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi, ben trovati. Buongiorno. Esperto di anticorruzione, docente tra l'altro di un corso di specializzazione, un master, l'abbiamo già detto, all'Università di Roma, proprio su questo. Alessandro, allora, questa settimana è particolarmente importante, no? Perché? Sì, direi che questi temi è una bella settimana. Su un tema brutto è una bella settimana. Diccelo tu, che è successo? Ma che è successo? È successo che finalmente abbiamo chiuso con il DDL anticorruzione sulla parte in particolare delle pene. Lo siamo detti, no? Ci siamo raccontati un po' di volte. Non è che non avevamo una legge anticorruzione, però è un sistema di cose che dobbiamo fare per prevenire per combattere la corruzione. Da un lato c'è la prevenzione e da una parte c'è il contrasto, la repressione. Su questa, in particolare su questo secondo fronte, è quello su cui ha lavorato il DDL. E quindi pene più severe da una parte e poteri più incisivi dell'ANAC, la famosa ANAC, dall'altra. Una cosa importante, ho guardato un po' di tweet, un po' di cose di questi giorni qui, giustamente le persone si chiedono, ma non ce l'avevamo già una legge anticorruzione, poi ne facciamo un'altra, si sostituisce, cambia, e se volete lo diciamo meglio, perché forse questo è utile. Ma guardate, a livello generale noi abbiamo due discorso è abbastanza semplice. In fondo un signore che decide di corrompere o farsi corrompere, in testa c'ha sempre una motivazione da una parte, il fatto che lo vuole fare da una parte, e il fatto dall'altra parte ci sia uno spazio per farlo e la convenienza, no? Questo è così, in fondo alla fine del gioco, se la pena è bassa, è difficile che mi beccano, e tutto sommato io ho un mio sistema valoriale che poco me ne importa dell'atto in sé, e quasi quasi ci trovo. Che voglio dire? Voglio dire che in realtà facendo pene più severe non facciamo soltanto repressione, facciamo anche un po' di prevenzione, perché ovviamente se le pene sono severe e vengono rispettate, come dire, è esso stesso un disincentivo per coloro i quali invece ancora non si sono avvicinati a questa bella attività, e ovviamente ci pensano due volte. E invece per quanto riguarda questo inasprimento di pene, appunto, è significativo? Sono state inaspite abbastanza, secondo te? Sì, secondo me è significativo. Vi dico quello che secondo me c'è e quello che forse si poteva fare anche di più e si potrebbe fare ancora di più. Dal mio punto di vista è significativo, perché guardate, lo è anche da un punto di vista simbolico, il fatto di aver allargato per esempio il reato di concussione non soltanto al pubblico ufficiale ma anche a chi svolge un pubblico servizio più in generale, no? Quindi con il concessionario di un servizio pubblico, RAI, ENE o altro personale sanitario, voglio dire, di aver allargato innanzitutto la categoria di coloro i quali entrano nella fattispecie mi sembra fondamentale e importante. Il fatto quindi di aver dato dei poteri aggiuntivi all'ANAC è importantissimo, perché altrimenti avere un'autorità che poi ha, come dire, degli strumenti, arriva tardi o ha degli strumenti, diciamo, delle frecce spuntate, ovviamente rischiamo di avere un'autorità che poi non riesce a fare, un'autorità che non riesce a fare poi quello che deve fare. Certo, va detto, e su questo c'era stato dibattito parlamentare, che ancora una volta insistiamo su tutta quella che è la parte dei reati, diciamo, delle responsabilità che riguardano coloro i quali sono gli amministratori. Non sarebbe stato male cogliere l'occasione, e questo va detto perché in fondo la Comunità Europea l'ha chiesto a tutti i paesi, di parlare anche un po' delle responsabilità politiche in materia di corruzione. Cioè per e capirci. Quindi come, per esempio? Guardate, io credo che sia noi, su questo c'è un'indicazione, chiunque lo voglia leggere, è anche interessante. Esiste un rapporto della Comunità Europea sulle politiche italiane della corruzione, pubblicato il 4 febbraio dell'anno scorso, è un rapporto su tutta Europa, e ci dice come non solo noi, anche molti altri paesi, manchiamo per esempio di un codice di comportamento della politica. E che quindi abbia, perché sapete, il tema poi è questo fondamentalmente. Voi immaginate un ente locale, un comune, tutto questo sì riguarda la parte amministrativa, ma la domanda poi è: ma dove fino a che punto arriva, poi da dove parte quell'iniziativa, quali sono le pressioni che magari i vertici di un'amministrazione, quindi un codice di comportamento che sia, come dire, in qualche modo prelegislativo, sì. Cioè una cosa quasi deontologica. Sì, che però ha una sua rilevanza, perché voi immaginate, noi abbiamo un codice etico attualmente che è una delle misure anticorruzione, sì, per l'amministrazione, ed è oggetto di provvedimento disciplinare qualsiasi comportamento che il singolo dirigente... Ma non per i politici, questa cosa non ce l'abbiamo per i politici, questa chissà cosa. Chissà come mai, ecco, Alessandro, non ce l'abbiamo. È vero, secondo me questo però è molto importante, perché ovviamente poi un comportamento che devia rispetto a un codice deontologico, un codice comportamento, un codice etico, può essere poi disciplinato in maniera diversa. Sì. Ci sono riusciti i giornalisti a fare il codice deontologico su tutta una serie di cose, per esempio l'informazione economica, tutta la questione dei regali ricevuti, per esempio, bravo, o come ci si deve comportare. Se ci sono riusciti i giornalisti, ci dovrebbero riuscire anche i politici, sì. Insomma, questo è quello che... Perché quella parte lì, questo esempio, sì, proprio che facevi, questo ce l'abbiamo per l'amministrazione. Quindi noi tra le misure anticorruzione che già abbiamo in essere, ci abbiamo proprio esattamente la stessa cosa. E questo esiste però in altri paesi, per esempio? Guarda, in realtà su questo il rapporto della Comunità Europea è un pochino vago, nel senso che dice che tutta Europa è in ritardo, quindi va detto, non siamo noi, è tutta Europa è in ritardo. Per una volta siamo in compagnia. Io lo dico agli ascoltatori che ci stanno sentendo, e dicono, ma il codice deontologico, ma a cosa serve tutti questi codici? No, sono tutti strumenti che hanno comunque una loro utilità, perché come dicevi tu, se c'è un codice deontologico poi ci può essere una sanzione, magari non una pena vera e propria, ma una qualche sanzione può arrivare, in quel caso è una censura, insomma, sì. È una censura, potrei responsabilizzare. Voi immaginate se tutto serve in questa lotta alla corruzione, non bisogna fermarsi di fronte a nulla. Alessandro, siccome ti chiedo, cioè, con questa rubrica che facciamo con te ogni tanto il sabato mattina, che abbiamo deciso di chiamare Caffè Corrotto. Beviamo insieme a te un caffè parlando di corruzione. Ti voglio chiedere anche, avevamo fatto l'altra volta della differenza tra corruzione e concussione, stavolta ti vorrei chiedere sul peculato, ci puoi chiarire? Perché per esempio il presidente della Fondazione Salone del Libro di Torino, fino a prova contraria è innocente, però è accusato di peculato, proprio notizia di ieri, non si salva nessuno, nemmeno il mondo dei libri. Cos'è il peculato? Dunque sì, l'avevamo un po' accennato l'altra volta quando parlavamo di... Sì. L'avevamo soltanto accennato e non approfondito in buona sostanza. Allora, siamo sempre nella fattispecie dei cosiddetti reati contro la pubblica amministrazione, quindi è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale. Sì. E in buona sostanza è la fattispecie, è quando un pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, entra nel possesso di qualunque disponibilità, sia di denaro o d'altra, sì, e se ne appropria per un fine che non è quello utile allo svolgimento. Ma per fini personali. Lo distoglie dall'interesse generale e lo porta all'interesse. No, adesso non ti volevo chiedere la definizione proprio dell'articolo, perché magari ti metto anche in difficoltà. Ma è bravissimo, direi che possiamo chiedere qualunque cosa. Sandorina sa tutto. No, però è importante. Sì, no, sa tutto. In realtà io poi in tutto ciò faccio organizzazione aziendale, quindi io cerco di capire quali possono essere le modalità organizzative per prevenire questi tipi, sì, di fenomeni, che poi ovviamente entrano poi nelle fattispecie che avete detto. Però ricordiamoci sempre, quando parliamo di corruzione in questo frangente, non abbiamo una concezione un po' più ampia, cioè non siamo soltanto all'interno delle fattispecie così previste dal codice penale, però la legge 190 infatti ci invita a ragionare in termini di non integrità, cioè tutti quei comportamenti che può cercare di prevenire quei comportamenti che ledono per un vantaggio privato l'interesse collettivo. Quindi voglio dire, centrando il tema del codice penale, però le amministrazioni si stanno organizzando appunto attraverso i codici di comportamento anche per prevenire comportamenti che ledono l'interesse collettivo, pur non rientrando nella fattispecie del codice penale così come sovrainteso. Bene, grazie. Grazie. Adesso mi ripeto tutte le parole perché sabato mattina è molto difficile, però è bello sapere che ve ne state occupando, che qualcuno si sta occupando della corruzione in questo paese. Però va detto, io dico, dato che siamo, sì, in una trasmissione sulle cose che si possono fare, insomma, per carità, lo diciamo sempre, c'è tantissima strada, però sarebbe ipocrita non dirci che abbiamo messo sul tavolo adesso un sistema di azioni coordinato e oggettivamente che fa la differenza rispetto a politiche, ma non è una politica di adesso, del premier di adesso, parlo degli ultimi anni, certo, messe sul tavolo oggettivamente. Insomma, ci siamo accorti, noi vi stiamo col fiato sul collo. Ci siamo accorti che la corruzione è un problemino abbastanza grosso, diciamo, e quindi piano si stanno prendendo le contromisure. Grazie Alessandro Inna per essere stato con noi. Grazie mille, buon sabato. E così in questa settimana dove si è votata la legge anticorruzione abbiamo fatto anche noi abbiamo dato il nostro contributo, così chiarendo un po' i termini di questa legge. Traffico tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è chi crede solamente al business, ma sto mondo qui è pieno di stress. Ciò non fa per me, e lo sai perché. Credo nei sogni e nelle idee. Chiedo un piccolo time out a sto grigiore per vedere com'è fuori stamattina se c'è il sole. Oggi cerco un tocco di colore per la fantasia che ogni giorno in questo mondo muore. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. Come again, qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un uomo e la sua strada che è fatta di sogni e di idee. I sogni e le idee di Brusco per introdurre un appuntamento che ci sarà oggi a Finale Ligure, Liberiamo le idee. Ne parliamo con Teo De Luigi. Buongiorno Teo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che è regista di un documentario che verrà proiettato in questo happening vero e proprio. Finale Ligure, oggi appuntamento per costruire insieme il futuro della Piaggio. Parliamo di recuperare un'area abbandonata. Pensavo parlassimo del mio motorino che sta morendo a 15 anni, scusami. Di recuperarla come, Teo? Recuperarla è questo è il dibattito, questo è il confronto che stiamo mettendo in piedi, perché la Piaggio come fabbrica è stata qua per 100 anni e più, e se n'è andata da poco, è andata a 25 chilometri da qui, non è andata tanto, come lontano. Dire, in tanto lontano, però questa area è di 70.000 metri quadrati. Però, mica da ridere. È quasi un quarto di tutto il territorio comunale finalese. Quindi l'evento di oggi è proprio: troviamoci, liberiamo le idee e cerchiamo di trovare un modo per recuperare quest'area. Cosa prevede la giornata di oggi? Oggi ci vediamo dalle 4 in poi fino alle 11 di sera, fino con un esercito in pratica, come una grande festa di filmmakers, di street artist, di fotografi, di musicisti, tutti insieme in questa piazza, nella piazza principale di finale, per fare interviste, fotografie, dipinti, perché sui dipinti della street artist nessuno in qualche modo a finale si è mai misurato, e noi vorremmo dare un volto nuovo proprio a partire da questa occasione alla città. Anche perché avete un sacco di spazio, si può dire? 70.000 metri quadri. 70.000 metri quadri. Da arredare, pensa un po'. Potrebbe essere veramente un'opportunità incredibile se riuscite a trasformare questi 70.000 metri quadri in un centro europeo enorme, gigantesco, bellissimo. Chi è la proprietà però? La proprietà è una società che incomincia, fortunatamente in questi tempi ha incominciato a dialogare con voi, con il comune, il comune e con noi, speriamo, perché noi siamo in qualche modo un gruppo creativo in questa città e ci mettete un po' in evidenza un po' di contenuti, un po' di idee. Siamo in chiusura. Io ricordo semplicemente che il titolo che avete scelto è Liberiamo le idee, quindi se andate su internet, cari ascoltatori, trovate tutto quanto riguarda questa iniziativa. Grazie a Teo De Luigi, grazie per essere stato uno in bocca mille. Al lupo a Finale Ligure. Ce ne sono tante di storie così. Noi ogni tanto ne parliamo, ne scoviamo, posti da recuperare, speriamo che ci si riesca. Allora, vince... non dovevamo dare il premio, esatto, giusto, il nostro giusto. Amico Dario da Bologna, che ci ha segnalato il museo del il monumento, scusate, del camionista a Bologna, come un monumento orrendo da abbattere. Ci salutiamo qua. Esatto. Ci sentiamo domani. I ringraziamenti, non fai ringraziamenti. Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in assistenza in diretta, Andrea Piana, Miriam Lucchetti, Claudio Schettone. Ciao, a domani. Ciao. Alessio Maurizio. Carlo Gabardini.